Allora, il punto di partenza di questa serata dovrebbe essere, anzi è, non solo dovrebbe essere, ma è questa antologia, Voi non ci sarete, che è uscita ormai un anno fa quasi, così. E un'antologia che si occupa, come avete visto tutti dai volantini, dalle pubblicità di questo evento, della fine del mondo. Il principio sarebbe stato proprio dopo il 2001, dopo l'11 settembre, dopo tutto quello che è successo negli ultimi 10 anni, negli anni zero di questo nuovo millennio, come vengono detti, come dobbiamo interpretare il nostro futuro, come dobbiamo interpretare quello che arriverà. E Alessandro, che è il curatore di questa antologia, ha chiesto a una decina più o meno di scrittori, più o meno affermati, ma comunque nessuno alle prime armi, tutta gente già con almeno un romanzo alle spalle, di affrontare questo tema e di vedere un po' di svilupparlo. Devo dire che è venuto fuori di tutto, nel senso che a leggere questa antologia ci sono risposte veramente le più disparate, dai lavori come il lavoro di Simone, che sono inseriti all'interno di un discorso molto più ampio, che è quello di United We Stand, quindi sono fondamentalmente il pezzo che ci vuole, uno spin-off, no, del tuo lavoro, ad altri pezzi di altri autori che sono più individualizzati all'interno delle loro, come posso dire, della loro narrazione in generale. Vabbè, il senso di questa operazione, che adesso Alessandro ci racconterà in due parole, era più che altro appunto quello di capire verso quale futuro ci potremmo andare a dirigere, e soprattutto se quella che è sempre stata la domanda classica della fantascienza, no? della letteratura che andava a indagare il futuro, come staremo, ma ne vale veramente la pena? Cioè, è oggi un mondo, quello che ci si prospetta, dove c'è un futuro possibile? Siamo stati legati per almeno un secolo, quasi tutto il Novecento, all'idea di progresso, all'idea di una possibilità di futuro. Abbiamo avuto tutta la crisi di fine secolo, il crollo del muro, la fine delle ideologie, e oggi da che parte andiamo? Cioè, qual è il futuro che ci aspetta, che cosa andiamo di fronte? Ecco. Sì, allora, le suggestioni dalle quali nasce la raccolta sono quelle che hai detto tu, e ovviamente sono condizionate da fatti di cronaca degli ultimi anni piuttosto significativi, che hanno mutato l'immaginario occidentale. Innanzitutto, gli anni zero iniziano con gli aerei che si schiantano sulle Torri Gemelle, e questo aereo che si schianta, questi due aerei che si schiantano alle Torri Gemelle, testimoniano anche un cambiamento epocale a livello politico e anche di geopolitico, di strategia militare da parte degli Stati Uniti, però a livello di immaginario per noi testimoniano l'inizio o la compiuta testimonianza visiva di una crisi in atto. Cioè, il centro del potere occidentale viene messo, viene abbattuto militarmente, perché quello fu un attacco militare. Allora, ovviamente ci sono altri segni importanti negli anni zero, perché subito dopo l'uragano Katrina, se nel 2004 se non sbaglio, ci porta con urgenza il segno di una crisi ambientale che non è più semplicemente fantascienza, è presente, cioè i cambiamenti climatici sono davanti a tutti. Beh, in questi giorni la petroliera, la piattaforma... Sì, e il problema della crisi ambientale, ovvero, è legata poi anche a un concetto molto occidentale di sovrapproduzione, quindi anche di rapporto con le risorse del nostro pianeta, quindi non lo riguarda gli anni 00, ma riguarda proprio il concetto di progresso, cioè anche il concetto di basare un'economia su un continuo aumento di produzione. Si arriva per forza di cosa a un punto di rottura, e queste però sono tematiche anche classiche della fantascienza anni 70, Ballard, che però ritornano con urgenza perché adesso avviene che cambiano i climi veramente, e vediamo i primi segni importanti di queste. Poi c'è un fatto ulteriore molto importante che invece riguarda l'economia. Noi come occidentali siamo, non noi ma i ventenni, sono la prima generazione che sarà più povera dei propri padri. Per adesso, nel Novecento e del secondo dopoguerra in maniera molto forte, c'è stato un continuo incremento di ricchezza. già la nostra generazione vedeva inclinarsi, cioè quelli nati alla fine degli anni 60, nella seconda metà degli anni 60, vedeva inclinarsi questa tendenza, perché comunque avevamo una rimessa dai soldi delle generazioni precedenti, ovvero quelle del boom, però comunque c'era una tenuta. Adesso no, adesso la centralità economica non è più in Europa, non è più neanche negli Stati Uniti, ma è assolutamente in Asia. In Asia e quindi soprattutto nella Cina, quindi noi non siamo più il centro del mondo a livello economico, gli americani lo sono ancora a livello militare, ma vedremo quanto durerà. E in più c'è una cosa che riguarda l'Italia, ultimo segno importante, è un degrado culturale che ci porta a essere periferia di noi stessi. L'Occidente non crea più produzione culturale, non crea più modelli culturali, ma soprattutto non crea più neanche consenso culturale, neanche all'interno dei propri confini. Siamo una razza, una civiltà piuttosto stanca, questo crea dei segni che soprattutto, ed è evidente negli ultimi 10 anni, che hanno influenzato questa raccolta, a livello cinematografico, a livello anche letterario, ritornano i segni della fine del mondo, ritorna il pensiero della fine del mondo, perché tutte queste cause portano a questa sede, quindi ritornano i film sugli zombie, sulle catastrofi ambientali, sul collasso dell'economia, sul collasso della storia, eccetera, eccetera. Noi abbiamo cercato di intercettare con questa raccolta un immaginario che è, appunto, come dicevi, è un immaginario molto ampio, diversificato. Certo, a 360 gradi sicuramente. Perché non è più condizionato, ad esempio, da quello che condizionò la mia generazione, che anche la tua, ovvero l'incubo della bomba. Noi, il nostro immaginario apocalittico era legato alla catastrofe nucleare. Adesso non è più così, ce n'è diversi e la raccolta, secondo me, li testimonia piuttosto bene. Possiamo scegliere la nostra apocalisse, possiamo. Esatto.